Passiamo adesso all'ultima relazione di stasera, che è quella del dottor Mazzolini, non saprei se dire dell'Università di trasferimento dall'Università di Trento all'Università di Arezzo, il quale darà la dimostrazione di Arezzo. Sì. Della dimostrazione di quanto sia largo il concetto di Verfassungsgeschichte a cui noi ci rifacciamo, perché è questa relazione intitolata Analogie biopolitiche nell'opera di Rudolf Virchow, appunto, aprirà naturalmente sul campo che finora non è stato toccato del significato e comunque della presenza delle scienze naturali, eccetera, anche nel nostro quadro. Grazie. Dunque, devo dire uno o due cose. Prima, vi sono nelle fotocopie che vi sono state date una serie di citazioni che costituiscono delle analogie e delle metafore presenti nell'opera di Rudolf Virchow, il quale fu un patologo ritenuto dagli storici della medicina. Ah, tra parentesi, scusatemi, forse è bene che vi spieghi anche una cosa, che io sono professionalmente uno storico della scienza e quindi mi trovo ovviamente un po' imbarazzato a parlare con storici politici costituzionali del diritto e intervenire su questioni che in parte sono comuni. Dicevo, Rudolf Virchow è considerato dagli storici della medicina come probabilmente il maggior patologo dell'Ottocento in Germania. Fu anche un uomo politico e fu una personalità fortissima in ambiente universitario a Berlino. Visse, ricordo le date, tra il 1821 e il 1902, alla fine del secolo scorso, quasi tutti i patologi tedeschi erano stati suoi allievi. Fu un membro del Fortschrittspartei, anzi un membro fondatore dal 1861 in poi, prese parte alla Kulturkampf, ebbe un grande ruolo anche nell'organizzazione della sanità del comune di Berlino. Io però mi riferisco soltanto al suo primo periodo, cioè quello che va dal 1845 circa, 46, fino al 1861. Cioè, praticamente prendo in considerazione i suoi primi scritti, la sua attività come riformatore della patologia, ma anche come riformatore del Medizinalwesen durante il 48 e 49, o i tentativi di riforma, e termino veramente proprio con il 61, o col 60-61. Però, dico, questo è l'argomento, diciamo, di uno studio che sto compiendo. Quello che farò oggi è invece quello semplicemente, in caso il termine società, riferendolo ad organismo, l'emittente dell'immagine, cioè ciò che spiega, qui è il termine società. Spiega, cioè, la coesistenza di più organismi singoli nell'organismo complesso che è costituito appunto dall'individuo. Ora, questo fatto, cioè la presenza di un concetto di questo genere, è estremamente significativo, perché uno potrebbe dirsi: per quale motivo scienziati di questo genere usano un discorso figurato? Cioè, è chiaro che nella scienza la prima cosa che si fa, non si usa mai un discorso figurato. Lo si usa soltanto quando io non ho nessun altro tipo di terminologia a disposizione o nessun altro modello per spiegare un dato fenomeno. Allora, in questo caso noi, almeno secondo la mia interpretazione, abbiamo apparentemente banale, una banale influenza di un elemento politico-sociale che viene utilizzato nella teoresi scientifica. Ecco, la cosa ha poi delle conseguenze notevoli, perché se questo è l'aspetto immediato, cioè viene usato questo modello, ovviamente questo modello però può anche avere una funzione euristica, perché qua abbiamo un'analogia che diventa un modello, questo è il punto. Una funzione euristica nella scoperta. E di qui è molto importante avere tutta una serie di analogie nell'opera di Virchow, cioè dal suo primo lavoro lui fa queste analogie di carattere sociale, e questo ci testimoniano che le sue analogie non sono di tipo didattico, non sono fatte per gli studenti, ma sono costitutive, io uso questo termine non nel vostro senso, in un senso non so come definirlo, sono costitutive del modo in cui lui pensa. E qui interveniamo veramente in quello che mi imbarazza molto, perché io in realtà non faccio né in questo lavoro che sto facendo in realtà da parecchi anni, non faccio né storia della scienza né storia tout court. Io uso un'espressione che è di un'ambizione spaventosa, e uso l'espressione di antropologia intellettuale, cioè mi sforzo di capire non semplicemente quello che un individuo ha detto, ma il modo in cui lui in qualche modo riusciva a pensare, perché. E quindi l'analogia in questo senso, in genere tutte le espressioni metaforiche, sono fondamentali in quanto ci indicano spesso, questo è il mio punto di vista ovviamente, ci indicano spesso come un autore pensa. È chiaro che gli scienziati queste analogie, queste metafore, tendono ad espellerle nel testo scientifico. E l'elemento... La difficoltà consiste nel trovarle o nei primi testi o casomai nei manoscritti, perché queste ci indicano appunto la genesi del loro pensiero. Se uno è interessato appunto alla storia della scienza, quindi anche come vengono formulate le teorie, questo secondo me è un punto da esaminare. Però c'è ovviamente un altro aspetto di questa serie di analogie che bisognerebbe leggere insieme, ed è quello che costituiscono in un certo senso una critica di quel macromodello, di quella concezione che pervadeva un po' tutti gli autori del primo Ottocento e anche in parte del secondo, anche quando lo negavano, che è quello, il concetto di Staatsorganismus. In fondo è una questione, questa qui, questo termine, appunto, è una metafora. È una metafora in cui però, diversamente da Virchow, il polo emittente, cioè ciò che dovrebbe chiarire la natura dello Stato, è il concetto di organismo. Ed è però usato da tutti gli autori che voi avete citato oggi, Stahl, Hegel e via dicendo, ed è usato sia che loro accettino la concezione organicista dello Stato, sia anche quando la negano, la Staats, Leibniz, cioè questo concetto che in qualche modo da sondaggi che faccio, non sono di tipo quantitativo, però credo di avere visto tanti testi, si sviluppa soltanto proprio negli ultimissimi anni del Settecento e poi pervade tutta la letteratura. Non è semplicemente un concetto, indica anche qui veramente un modo di pensare. Indica insomma, se uno pensa allo Stato come ad un organismo vivente e non lo pensa più come una macchina, dico, questo qui che cos'è per voi? Cioè è un'indicazione di un modo diverso in cui la gente pensa o è soltanto un enunciato teorico? Secondo me è l'indicazione, io ho questa profonda impressione, insomma, che vi sia un mutamento profondo nel modo in cui alcuni autori pensano lo Stato, appunto, o la società anche come sviluppo, eccetera, utilizzando questo termine, il quale termine poi tra l'altro ha una storia di per sé un po' complessa. E come voi sapete, organismo nel primo Settecento non voleva certamente dire organismo come lo intendiamo noi, voleva dire strumentazione, insieme di strumenti, macchinismo. Era un equivalente, come lo danno alcuni dizionari del primo Settecento, era un equivalente di macchinismo, l'insieme di macchine. Alla fine però del Settecento questo termine ha un significato diverso, attraverso una lunga storia che qui non è inutile ripercorrere, e però questo termine così importante che plasma, e scusate se uso questa espressione, io veramente vorrei che mi desti addosso, ma che plasma secondo me le teorie. Hegel pensa in modo diverso perché usa questo termine, e così lo pensano gli storici che usano questo termine. I contenuti possono anche essere contenuti vecchi, ma che però vengono ritradotti, cioè i contenuti di certi aspetti, però vengono ripensati in maniera diversa. E allora il problema poi si pone, ma questi autori che usano questo termine, che segno politico lo usano? Perché si è detto sempre sono reazionari. Già, però poi noi vediamo che anche alla Paulskirche gli stessi che sarebbero contrari a questo termine, poi lo usano nei loro discorsi all'Assemblea Nazionale di Francoforte, e qui ho numerosi esempi. È chiaro, poi qui vorrei anche concludere, così rimango in 17-18 minuti, che quando Virco usa questo termine, lui però fa la critica del concetto di Staatsorganismus, perché in sostanza lui nega che lo Stato sia un organismo, in quanto organismo per lui sono lo Stato per lui è soltanto un complesso di organismi, come l'uomo, che è un complesso di cellule, cioè la scoperta della teoria cellulare fa sì che questo che lui possa fare una critica, pur rimanendo lui stesso però un organicista nel suo pensiero. E questo mi permette di concludere facendo un'osservazione di carattere generale. Io credo di avere visto un 12 studi sulle concezioni organiciste dell'Ottocento, e in tutti vedo che nessuno ha notato appunto l'importanza che ha avuto l'introduzione, diciamo, e la diffusione lentissima, della teoria cellulare al di fuori degli ambiti specifici, al di fuori degli specialisti. Dico, l'influenza che ha avuto questa però sulle varie dottrine organiciste, tanto che io personalmente sarei portato a distinguerle fortemente in prima metà, diciamo, dell'Ottocento, da quelle della seconda metà, dove da Spencer in poi adottano nel loro concetto di organismo, possono dividere l'organismo, anche introdurre l'elemento cellule, e quindi rendono tutte le loro divisioni e suddivisioni molto più complesse, possiamo dire, molto più articolate, e possono fare continuamente, diciamo, delle analogie tra appunto organismo e Stato, possono fare delle analogie molto più articolate. Per cui l'influenza, ecco, in questo caso, sarebbe di nuovo un'influenza delle scienze naturali sulla politica. Ben inteso, l'elemento che invece a me interessa è l'altro, quello della politica o del sociale nelle scienze naturali. Grazie. Grazie molto.